Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. La Zibelli sapeva di trovare nella signora Fassi un'alleata sicura contro la Pedani, la cui familiarità con suo marito le spiaceva anche più che non dicesse. Era una donna sui 40, con un seno enorme che le impicciava le braccia e con una gran bocca che perdeva le labbra, vestita sempre in casa come una bracina, la quale metteva tre quarti d'ora a scendere e a salire le scale, soffermandosi a parlare con voce piagnucolosa con quanti incontrava, e in particolar modo col segretario, che risapeva i fatti di tutti dalla bocca sua. Era molto gelosa dei robusti 38 anni di suo marito e pareva che avesse un concetto meraviglioso della sua rozza bellezza di caporalone, la quale non consisteva in altro che nella fierezza delle impostature e in due folti baffi che gli andavano dalla bocca alle orecchie. Ma lo temeva pure e non osava per questo di far degli sgarbi aperti alla rivale. La Zibelli disse d'essere venuta per svagarsi un pochino, fece l'allegra, accarezzò i bimbi, girò per la stanza, aspettando il momento opportuno, il quale le parve giunto quando la signora Fassi le domandò se quella sera era sola in casa. «Sola», rispose, «Maria è uscita, del resto ora non bada più a me, c'ha ben altro». E vista la curiosità della Fassi, non potendosi più contenere, con un tuono forzato di scherzo, senza parlare della lettera, le accennò l'amore del segretario. Quella rimase con la bocca aperta. La cosa le pareva incredibile. Poi disse, «Come lo sa?» «Lo so», rispose la maestra. «Ma per sposarla?» La maestra fece un segno, come per dire che non c'era dubbio. «Il segretario è matto», disse la Fassi con dispetto malcelato. «Ma e lei?» «Lei», rispose la Zibelli, «per ora fa l'indifferente, ma dirà 10 sì, l'un dietro l'altro». «Bah!» esclamò la signora dopo un momento di riflessione. «Il signor Celzani ci penserà prima un par di volte». «Ma cosa vuole che pensi don Celzani?» ribatté la Zibelli, e certa di deporre il seme in buon terreno, buttò là, come alla sbadata, alcune parole. «Don Celzani è un ingenuo, per lui una ragazza di 30 anni e una di 15 sono tutt'uno. Non conoscendo lui il mondo, crede che non lo conosca nessuno. Scommetto che non sa neppure che prima di venire a Torino, Maria è stata maestra in mezza dozzina di comuni. Si sa le avventure delle maestre nei villaggi, di lei poi n'han parlato anche i giornali. C'è perfino la storia di una compagnia di bersaglieri, niente meno. Ah, ci sono dei belli originali a questo mondo». E trascinata dalla rabbia, stava per dire di peggio quando s'udì una forte scampanellata. I ragazzi ammutolirono a un tratto e la signora corse ad aprire, e il maestro Fassi entrò, molto eccitato, con la Gazzetta di Torino nella mano. Salutata appena la Zibelli, si voltò verso sua moglie mostrando il giornale stretto nel pugno. «Ne vuoi sapere una nuova? Un asino d'un maestro di ballo che salta su con un articolo nella Gazzetta di Torino, offeso con me perché nell'agone della settimana passata ho detto che il ballo è una diramazione della ginnastica. Ma sai che ci vuol tutta? Ma le ho fatto un onore che non merita all'arte delle pirulette. Te lo concederò io un altro articolo. Hai da vedere in che maniera quello sgambettino presuntuoso!» E seguitò a declamare, abbozzando l'articolo, mentre faceva dei nastri per la stanza. «È tempo una volta di cantarla chiara a questi ignoranti. Loro non fanno una differenza al mondo tra un maestro di ginnastica e un acrobata da circo! Ma il maestro di ginnastica è un uomo di scienza, o signori! Egli deve conoscere la ginnastica teorica, l'anatomia applicata, la pedagogia, l'igiene, la storia della ginnastica, la costruzione di attrezzi e palestre, la tecnologia, e deve essere artista!» Poi domandò bruscamente alla Bauman: «Che novità?» La moglie gli sciorinò la novità. Don Celzani, che voleva sposare la maestra Pedani, ma dicendo questo non vide punto sul viso del marito l'espressione di gelosia che s'aspettava. Infatti egli non sentiva per la Pedani che l'ammirazione d'un meccanico per una bella macchina e non aveva mai avuto altro pensiero su di lei che quello di servirsene per i suoi fini ambiziosi. Gli spiacque non di meno quella notizia, prevedendo che maritata essa gli sarebbe sfuggita di mano. Ed egli sarebbe rimasto così, senza stile, ma non espresse questo pensiero. Segretario stette penosamente incerto tutto quel giorno e la mattina dopo, se dovesse aspettare una risposta per iscritto oppure farsi coraggio e chiederla a voce. Finì col farsi coraggio e al tocco e tre quarti, ora in cui sapeva che di domenica la maestra usciva sola per andare alla palestra, si piantò dietro l'uscio di casa sua spiando pel buco della chiave quando ella fosse comparsa sul pianerottolo. Un rumore lo scosse, egli cacciò fuori il capo ma lo ritrasse subito. Non era che il vecchio professor Padalocchi, chiuso nel suo gran cappotto impellicciato e tutto curvo, che usciva, tossendo per la sua solita passeggiata igienica. Ma un momento dopo egli sentì il passo della Pedani. Dio grande, l'occasione era perduta. La maestra, raggiunto sul pianerottolo il vecchio, che le fece un gran saluto, si soffermò e attaccò discorso con lui. Ogni parola della loro conversazione cadde come un peso enorme sul cuore del povero innamorato. Il signor Padalocchi si lamentò d'un nuovo incomodo. Aveva la respirazione incompleta. Perché, gli domandò la Pedani, non fa un po' di ginnastica polmonare? Quegli sorrise. Ella insisté. Glielo dico sul serio, non c'è di meglio per dilatare il petto. Provi a fare tutti i giorni, appena levato, delle ispirazioni ed espirazioni lunghe e ripetute. In questa maniera. E le fece. E il segretario ebbe un'ondata di sangue alla testa. Ne faccia 10 o 20 dapprima, continuò la maestra, e ne aggiunga tutti i giorni, se può, una decina. Le assicuro che a capo di 2 settimane si sentirà molto meglio. Il professore parve persuaso e la ringraziò. Faccia la prova, ripeté la Pedani, e me ne riparlerà, e poi le impresterò io un libro che contiene tutti i precetti. Arrivederla. Ciò detto, affrettò il passo. Il segretario sperò di indovinare un barlume dell'animo di lei, dal modo come avrebbe guardato l'uscio di casa sua passandovi davanti, ma essa passò senza guardar l'uscio, e questo lo sgomentò. Era non di meno ancora in tempo a raggiungerla sotto il portone, ma nell'atto di slanciarsi fuori si sentì gridare in viso: «Oh, dolce segretario!» Dio grande, era l'ingegnere Ginoni, il quale veniva come tutti gli anni a pregare il padrone di casa, suo vecchio amico, di scendere quella sera da lui per un piccolo trattamento di famiglia che soleva fare nel giorno natalizio dei suoi gemelli. Anche il secondo colpo era fallito. Non gli restava più che aspettare la sentenza della posta. C'era poca gente quella sera in casa Ginoni. Il professor Padalocchi non aveva potuto venire, la Zibelli non aveva voluto, il padron di casa non compariva. Nella sala da pranzo, intorno a una gran tavola ovale, coperta di fruttiere piene di dolci e di bottiglie di vini sardi e siciliani, non c'era che la famiglia, la maestra Pedani e 3 piccole amiche della figliuola con la loro nonna che stavano di casa sull'altra scala. La bimba di cui la Pedani era ancora maestra di ginnastica alla scuola Margherita aveva 13 anni e pareva il ritratto del figliuolo più piccolo, suo gemello, alunno di terza ginnasiale. Il figliuolo maggiore, Alfredo, di 21 anni, studente di matematica all'università e velocipedista chiarissimo, era un biondino ardito, con 2 begli occhi maligni, già disinvolto come un uomo rotto al mondo, e s'era messo a sedere così vicino alla maestra che questa aveva dovuto farsi un po' indietro per non strisciarlo con la spalla e col fianco. Egli era l'idolo di sua madre, che non aveva ancora 40 anni, un'acciuga elegante e indolente, con un gran naso aristocratico, benevola quando non l'urtavano nell'amor cieco che aveva per quel figliuolo. Il più simpatico della famiglia era l'ingegnere, bell'uomo sulla cinquantina, grigio, ridente, lavoratore, gran parlatore, gran celione, amante della vita larga, ma senza fumo. Marito e moglie avevano una simpatia cordiale per la Pedani, in parte per l'originalità rispettabile del suo carattere, e più perché la loro bimba la adorava, e non dissentivano da lei che per un'avversione dichiarata alla ginnastica, nata da che un loro nipote, alunno d'un collegio convitto di Milano, anni prima, s'era rotto un braccio cadendo dalle pertiche d'ascensione. «Amici!» le soleva dire il Ginone incontrandola su per le scale, ma fino alla soglia della palestra. Oppure «abbasso la ginnastica!» e ogni volta che si trovavano insieme la stuzzicava facetamente su quell'argomento. E la conversazione cadde lì, anche quella sera. Fra le altre cose, per criticare il nuovo metodo di insegnamento, l'ingegnere raccontava di aver visto l'anno prima eseguire i passi ritmici alle figlie dei militari dell'istituto di San Domenico, dove era andato per visitare i locali. Sì, lo spettacolo gli era piaciuto. Quelle 150 ragazze grandi con quei bei vestiti neri e azzurri e con quei piccoli grembiali bianchi schierate in vasto cortile che si muovevano tutte insieme al comando d'una maestra con dei movimenti graziosi di contraddanza facendo un fruscio cadenzato che pareva una musica di bisbigli. Ma, Dio mio, quante parole metteva fuori quella maestra per farle muovere! Chiacchierava più lei di quello che esse muovessero. Erano dei comandi interminabili da generale di brigata, una complicazione faticosa di coreografia. A lui sarebbe venuta voglia di troncare la rappresentazione a metà e di sbinfagliarle tutte in un prato fiorito come una mandra di puletre. Ma la Pedani su questo era d'accordo con lui. Essa era baumanista, appunto perché il Bauman faceva guerra alla ginnastica coreografica e voleva per le ragazze una scuola più virile. «Allora», disse l'ingegnere, «per farla arrabbiare le dirò male del Bauman. Io lo difenderò», rispose la maestra. «Si provi». «No», disse lui sorridendo, «non lo farò, non sono abbastanza enciclopedico, perché ora la ginnastica abbraccia tutte le scienze», e citò un conferenziere della filotecnica che sera innanzi, dovendo trattare della ginnastica, aveva fatto prima una corsa sterminata attraverso alla filosofia, all'etnologia, all'antropologia, e messo sottosopra tutto lo scibile umano, poi aveva finito coi manubri. «Non dica più niente, ingegnere», disse la Pedani, «perché mi rincresce davvero di sentire un uomo come lei mettere in ridicolo una cosa tanto seria. Come si fa a scherzare sulla ginnastica mentre abbiamo su 300.000 iscritti alla leva, 80.000 riformati per inattitudine fisica, mentre abbiamo i ginnasi pieni di giovanetti scoloriti che hanno petti e braccia di bambini e su 10 ragazze della miglior società non se ne trovano 2 senza qualche difetto di costituzione? Ah, è un triste scherzo!» L'ingegnere fece insieme una piruletta e un frullo con una mano. La signora Ginoni prese allora la parola con la sua voce indolente. Eppure, cara maestra, la ginnastica per le ragazze ha anche i suoi inconvenienti. I maestri di ballo osservano che toglie la grazia e abitua a movimenti scomposti. Così i maestri di pianoforte dicono che quando tornano dalla palestra le signorine non sanno più suonare. Anche i professori di disegno si lamentano. È gelosia di mestiere, rispose la maestra. Lo creda, signora, è impossibile che faccia danno al ballo o a qualunque arte l'esercizio ginnastico, poiché per effetto appunto di quest'esercizio la sinovia si versa più abbondante nelle articolazioni mobili delle ossa e rende tutti i movimenti più facili e più liberi, vede? Anche il suo figliolo mi dà ragione. Ah, a proposito, soggiunse voltandosi verso lo studente, debbo ringraziarla del suo bel regalo. Il giovane diede un guizzo, ma non arrossì punto. Ci voleva altro, però avrebbe preferito il silenzio, e con molta disinvoltura disse a sua madre che aveva mandato alla maestra, supponendo che le dovesse piacere, il piano d'un ginnasio greco copiato da lui in biblioteca. La signora sorrise a fior di labbra e disse alla Pedani: «Domenica scorsa Alfredo ha vinto il premio d'una bandiera alle corse dei velocipedi». La Pedani si fece raccontare, ma questa volta, raccontandole le vicende della sua corsa nella quale egli aveva cavallerescamente aspettato che si rialzasse il suo competitore caduto, il giovane le si strinse addosso per modo, civettando col capo e con gli occhi, che suo padre non poté a meno di fargli un cenno severo che egli non vide. «Vede dunque», disse la maestra all'ingegnere facendosi un po' indietro con la seggiola, «anche il suo studente è con noi. Siamo dunque in maggioranza per la ginnastica in questa casa. Il Fassi, io e la mia amica, il signor Padalocchi che fa ginnastica polmonare, suo figlio, il commendator Celzani». Al nome di Celzani l'ingegnere diede una risata. «Quanto al commendator Celzani», disse, «lo lasci stare». «Come?» domandò la Pedani. «Non va forse a tutti i saggi di ginnastica che si danno dal primo all'ultimo, alla palestra, a scuole, a istituti? La sua approvazione vuol dire molto. Non mi potrà negare la serietà del commendator Celzani». «Io non la nego, tutt'altro», rispose il Ginoni con brio, «tanto più che è un mio buon amico, anzi dico che è una delle più venerande canizie di Torino, soltanto...» E qui guardò furtivamente le bimbe grattandosi il mento come se cercasse un modo di spiegarsi senza farsi capire da loro, ma le bimbe, occupate a spartirsi i confetti, non gli badavano. «Soltanto», riprese, «il suo culto per la ginnastica è troppo parziale. Veda un po' se gli si cura più che tanto della ginnastica maschile, e poi dà troppa più importanza alla seconda età che alla prima. Però è ammirabile la puntualità con cui va a quegli spettacoli e l'attenzione che vi presta. Egli ci trova proprio degli alti godimenti intellettuali, e ne esce tutto grave, coi suoi occhi dolci, azzurri, socchiusi, immerso in profondi pensieri. Ah! Se si potessero scrivere, io lo conosco, e non è il solo. La ginnastica femminile è stata un ritrovato impareggiabile per questi signori, una vera consolazione nella loro vecchiaia, una sorgente di delicatissime delizie cerebrali di cui noi profani possiamo farci appena una lontanissima idea. Il commendator Celzani non ha a che vedere con la ginnastica scientifica, lo creda a me. Citi delle altre autorità, signorina. Un giorno citerò lei, rispose la maestra per tagliare quel discorso, perché io la persuaderò e lei si farà iscrivere alla palestra. L'ingegnere stava per rispondere con uno scherzo un po' fuor di luogo, quando suonò il campanello e un momento dopo entrò il segretario. Fu un colpo di scena. Veniva a portare le scuse dello zio, che non poteva uscire di casa a causa d'un raffreddore, Entrato senza pensare che potesse esser lì la maestra, al vederla ebbe come il senso d'una forte scossa elettrica, e per quanto grande fosse il timore di farsi scorgere, egli non poté vincere sul primo momento il violento bisogno di cercare sul viso di lei l'impressione della sua lettera. Ella fissò, dilatando smisuratamente i suoi piccoli occhi e facendo una faccia stranissima, tremante in tutti i muscoli e accesa ad un vivo rossore, a cui succedette una pallidezza di coleroso. Quella faccia rivelò in un lampo ogni cosa al signor Ginoni, il quale guardò subito la maestra, che si lasciò sfuggire un sorriso indefinibile, non espresso dalla bocca né dagli occhi, ma quasi diffuso sul viso, immobile, come il riflesso esteriore d'un'immagine comica. Leopoldo Mastelloni ha letto Amori e ginnastica di Edmondo De Amicis. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolanti e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.